Componimento tredicesimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. La sera del dì di festa. Dolce e chiara è la notte e senza vento. E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontana rivela serena ogni montagna. O donna mia, già tace ogni sentiero e pei balconi rara traluce la notturna lampa. Tu dormi, che t'accolse agevol sonno nelle tue chete stanze e non ti morde cura nessuna. E già non sai né pensi quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. Tu dormi, io questo ciel, che sì benigno appare in vista, a salutar m'affaccio, e l'antica natura onnipossente che mi fece all'affanno. A te la speme nego, mi disse, anche la speme, ed altro non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. Questo dì fu solenne, or da trastulli prendi riposo, e forse ti rimembra in sogno a quanti oggi piacesti e quanti piacquero a te. Non io, non già ch'io speri, al pensier ti ricorro. Intanto io chiego quanto a viver mi resti, e qui per terra mi getto e grido e fremo. O giorni orrendi, in così verde etate, ahi, per la via odo non lunge il solitario canto dell'artigian che riede a tarda notte dopo i sollazzi al suo povero ostello, e fieramente mi si stringe il core a pensar come tutto al mondo passa e quasi orma non lascia. Ecco, è fuggito il dì festivo e dal festivo il giorno volgar succede e se ne porta il tempo ogni umano accidente. Or dov'è il suono di quei popoli antichi? Or dov'è il grido dei nostri avi famosi e il grande impero di quella Roma e l'armi e il fragorio che n'andò per la terra e l'oceano? Tutto è pace e silenzio e tutto posa il mondo e più di lor non si ragiona nella mia prima età quando s'aspetta bramosamente il dì festivo, or poscia che egli era spento, io doloroso in veglia premea le piume e dalla tarda notte un canto che s'udia per li sentieri lontanando morire a poco già similmente mi stringeva il core. Fine del componimento tredicesimo.